sento dire, qui è tutto da rifare, disfare, ci vuol pazienza nel cambiare, mettersi alla prova, guarire il mondo, ma poi in un secondo si cambia idea per necessità, idea per comodità, è solo la verità che non cambia mai, se sei solo, solo resterai ad affrontare la vita con i tuoi guai. Devi gridare per farti sentire da gente sorda che non vuole capire, per tutti ogni giorno è sempre un'odissea, è più facile per noi cambiare idea per comodità, cambio idea per necessità. Che sento, anche se soffia forte il vento, ma io dirò quel che ho dentro, con tutta la rabbia e il coraggio che io ho, che io ho, che io ho, che io ho, che io ho. Pensieri sconnessi di filosofi stanchi, richiami riflessi, manifesti allettanti, felicità virtuali, immagini forti, facce sconcertate da ideali ormai morti, perché spesso sento dire, è tutto da rifare, disfare, ci vuol pazienza nel cambiare, mettersi alla prova, guarire il mondo, ma poi in un secondo si cambia idea per comodità. Quel che sento, anche se soffia forte il vento, ma io dirò quel che ho dentro, con tutta la rabbia che ho, ma io dirò quel che sento.